Il giorno veniva giù neve, le sere d'inverno parlavo coi sogni e il tempo era breve. Provavo a guardare ben oltre la strada, lasciandomi andare. E io non ricordo perché. E io non ricordo cos'è. A volte prendevo un vestito, sfiorandolo appena in un gesto discreto, stringendolo forte, portandolo al cuore, seguendo la musica senza parole. Ma io non ricordo dov'è, ma io non ricordo cos'è. Ballavo il mio valzer con te e il mondo girava da sé. Sul tuo cuore da re, così grande per me, per l'amore che chissà dov'è. Ballavo il mio valzer con te, ma tu eri distante da me. Col tuo cuore da re, troppo grande per me, per l'amore che ancora, che ancora non c'è. Stasera un segreto sarà il mio vestito, con la musica dolce e un colore indiscreto. E tu che mi guardi, io mi lascio guardare, è un modo qualunque per ricominciare. Ma io non ricordo dov'è, ma io non ricordo cos'è. E ballo il mio valzer con te, è un sogno che gira da sé. Col tuo cuore da re, troppo grande per me, per l'amore che chissà dov'è. E ballo il mio valzer con te, malgrado il silenzio che c'è. Quel tuo cuore da re, troppo grande per me, per l'amore che ancora, che ancora.